se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Seguo quello che è l'impegno che ho preso ieri con gli ascoltatori e continuo oggi a parlare di un fenomeno che ha abbastanza scosso il mio pubblico, perché non eravamo tutti a conoscenza che una sorta di patologia che colpisce in gran parte adolescenti giapponesi, ma non soltanto adolescenti, di sesso maschile, che si chiudono in casa, rimangono anni chiusi in casa, con l'unica deriva è quella informatica, telematica, immaginifica attraverso i multiplayer che fanno in rete per tutta la notte e il giorno dormono, e le madri offrono loro il cibo dalla fessura alla porta, e con il mondo non hanno nessun altro rapporto. Hikikomori in Giappone è una parola che spaventa e che vuole essere tenuta lontana. Il termine fu coniato negli anni Ottanta in riferimento a un numero sempre crescente di giovani i quali, per motivi spesso legati ad una forma di apatia scolastica, interrompevano le comunicazioni con il mondo sociale e si ritiravano nella propria stanza, rimanendovi ininterrottamente per lunghi periodi. Per codificare parametri nella definizione dello stato di hikikomori, fu indicato un periodo di ritiro minimo di 6 mesi, ma fu sempre più evidente che questo lasso di tempo si protraeva spesso anche per molti anni. È singolare che i hikikomori non si verifichi in famiglie divorziate o separate, ma in normali, regolari contesti familiari. Tutto è nato da un libro di una studiosa italiana che vive in Giappone, Carla Ricci, Hikikomori, adolescenti in volontà reclusione, edito in Italia da Franco Angeli, che ci ha cominciato a mettere la pulce in orecchio che questo fenomeno, che sembrava molto legato alla società, all'economia, alla storia recente del Giappone, stia tracimando anche alle nostre latitudini. Hanno cominciato a telefonare madri di figli autoreclusi, volontari in camera loro, che avevano a tutti gli effetti la sintomatologia di questo fenomeno, che ancora è così poco conosciuto che i medici di famiglia, chiamati, interpellati, dicono: noi non sappiamo di cosa si tratti. Non esce mai dalla sua stanza, vive come un clochard, non si lava, dorme. Noi ci siamo rivolti a parecchi specialisti. Ci hanno risposto che il problema va rimandato al giudice dei minori. Non è maggiorenne, ma questa situazione dura da 2 anni. Busso alla porta, lui apre lo spiraglio, gli do il piatto, poi i piatti si accumulano, i piatti sporchi, aspetto che si addormenti, lui preferibilmente sta alzato di notte e dorme di giorno, raccolgo la poca immondizia che riesco a raccogliere, perché se si sveglia ha delle reazioni violente. Non esce mai, per lui ha una stanza con un bagno privato. Questa è una prima testimonianza venuta da alcune telefonate che hanno immediatamente seguito la trasmissione di ieri, e abbiamo capito che in realtà il problema merita un approfondimento. Io ho una figlia che è 4 anni, che è in questa situazione. Ho passato di tutto e di più e non so come venirne fuori. Io sono medico, nonché mamma di un 17enne. Ci sono dei ragazzi che non hanno la fase così acuta, una sintomatologia proprio classica, però cominciano sicuramente a ridurre le frequentazioni con gli amici, comunicano solo via chat o via webcam, solo messaggi telefonici, riducono al minimo i giorni di frequentazione scolastica, trovano tantissime scuse, hanno un rendimento scolastico che comincia a scadere nonostante la loro capacità intellettiva. Abbiamo al telefono il dottor Marco Lombardozzi, con cui ci eravamo interrotti ieri, che è un medico, psicoterapeuta, studioso di hikikomori, che tra i suoi pazienti ha comunque alcuni casi che potrebbero corrispondere a questo quadro. Ieri ci eravamo soltanto intrattenuti pochi istanti, dottor Lombardozzo, oggi entriamo un pochino più nello specifico. Fra le tante telefonate che abbiamo avuto, molti si pongono il problema che in realtà noi diamo un nome nuovo a patologie antiche, cioè, ma molti di questi ragazzi hanno dei sintomi precoci di schizofrenia, quindi voi avete semplicemente dato un nome carino, nuovo e moderno, qualcosa già conoscevamo. È così esattamente, secondo lei? Buongiorno a tutti. Innanzitutto, no, secondo me non ci troviamo di fronte a casi di schizofrenia, per quanto riguarda gli studi che ho fatto e la mia esperienza. Sono forme di chiusura, ma non di dissociazione. Loro scelgono una diversa via di comunicazione, che è una via estremamente chiusa, priva di emozioni e d'accordo, ma non sono d'accordo sulla diagnosi di schizofrenia. Quindi questo è un fenomeno, a mio avviso, nuovo. Possiamo entrare un pochino più nello specifico per capire bene, sì, visto che ieri l'abbiamo lambito, abbiamo sentito testimonianze, altre ne sentiremo oggi, qual è il carattere nuovo e specifico di questi ragazzi? Io mi sembra aver capito che in realtà, oltre a una reclusione che potrebbe volontaria avere tutte le caratteristiche esteriori, ma poi non voglio fare oggi qui una trasmissione tipo clinico che si fa in ben altro contesto, non so, dei casi di depressione così, è questa fessura, anzi porta aperta verso un mondo di immaginario con il quale poi si condivide qualcosa, perché immagino che gli hikikomori nottetempo, quando si collegano in rete, giocano magari a un'avventura fantasy in un multiplayer, comunque sono qualcos'altro rispetto a quello che noi vediamo in quella stanza in mezzo alla spazzatura, e riescono a entrare in altri mondi. Quindi una forma di evasione tuttavia c'è una mortificazione totale del corpo e della sensorialità, come la intendiamo noi esseri umani dotati di cinque sensi, ma la novità è che si stanno addestrando a vivere un'altra vita. Sì, diciamo che, come dicevo anche ieri, c'è una rinuncia ad alcuni sensi, gli odori, il contatto fisico, perché ovviamente chiudendosi in questo modo non ne hanno. È più una forma di rifiuto verso determinati aspetti che sono appunto di tipo emozionale, e quindi una denuncia, un grido che io almeno raccolgo in questo modo, un grido di questi giovani di dire: io non ce la faccio ad affrontare il mondo, preferisco chiudermi e comunicare con chi è come me, quindi c'è un senso di appartenenza a un gruppo, comunicare con chi è come me, mentre lo schizofrenico non comunica con nessuno, vive in una vita totalmente astratta da qualsiasi tipo di realtà. Loro hanno una loro realtà e hanno una loro comunicazione, che è ovviamente priva o quantomeno fortemente ridotta delle emozioni di tipo sensoriale, ed è circoscritta soltanto a quelle persone che come loro appartengono a questo tipo di comunità, se vogliamo dire i quaqueri, per dire, o altre comunità molto chiuse che vivono in certi paesi del mondo, in fondo anche loro si chiudono, ma non sono schizofrenici, semplicemente si chiudono a livello collettivo, solo che questa collettività è di tipo internet, cioè non è una comunità che vive insieme, ma vive insieme nella rete. Quello che mi viene da pensare, dottore, è che tutto sommato rappresentano pure un atteggiamento che è chiaramente patologico, perché non voglio dire che abbia caratteri di vita vivibile, vivere chiusi, asserragliati, con le finestre sigillate con lo scotch in mezzo ai propri rifiuti, però rappresentano l'esito più estremo, la punta più avanzata di un comportamento che condividiamo tutti. In questo momento parlo con lei, ho Facebook aperto e sto rispondendo ad alcuni ascoltatori, ma fino a un'ora fa o tutta la serata di ieri ho avuto rapporti di lavoro personali, professionali, ho mandato il pezzo al mio giornale usando una macchina che ormai è la mia protesi verso il mondo. Quindi l'hikikomori rappresenta forse un anello, forse non ancora perfettamente costruito, di un uomo che esaspera la possibilità di relazionarsi, di trovare sintonia attraverso la rete. È chiaro che è una forma esasperata e, come lei diceva giustamente, di tipo patologico quando raggiunge quei livelli estremi. Quindi è una forma esasperata di una realtà nella quale effettivamente tutti noi viviamo e che bisogna integrarla. Cioè, se noi riusciamo a integrare l'uso del computer con l'amore e il contatto con le altre persone, viviamo da persone integrate e quindi sane. se questa integrazione non riusciamo a farla e diventa elefantiaco l'uso di una determinata cosa, in questo caso il concetto di rete del computer, siamo sconfinati in un ambito patologico. Su questo non ci piove, non ci sono dubbi. Non so se rientra fra, diciamo, i tipi di patologie che analizza quotidianamente nella sua professione. Noi facemmo un mese fa circa una trasmissione che suscitò altrettanto sconcerto e interesse nel nostro pubblico, quando parlammo delle comunità virtuali pro Ana e pro Mia, queste ragazzine che si scambiavano attraverso il computer delle maniere per eludere la sorveglianza sulla loro alimentazione negata e privata. Si spiegavano come togliersi di dosso i segni dopo aver vomitato e via dicendo. Anche lì la rete diventava una sorta di mezzo selettivo per mettere insieme delle coincidenze di comportamento che poi sfociano anche nella patologia. Esattamente, come dice lei, cioè in passato il giovane, e questo l'ha sempre fatto pure 2000 anni fa, tende ad aggregarsi con altri giovani e nella fase dell'adolescenza a considerare il mondo adulto altro da lui e non godibile o non accettabile, e questo ci sta. La modernità di questo internet ha fatto sì che queste comunità in cui i giovani si riunivano sul muretto piuttosto che in altri posti per parlare di queste cose, ora la comunità è virtuale, vale a dire che si riuniscono ognuno nella propria stanza davanti al computer e parlano delle loro cose. Cioè il discorso di fondo è rimasto lo stesso, la forma si è modificata ed è cambiata. Allora io intanto sì, do il numero di telefono, ricordo il numero di telefono al nostro pubblico, 800 24 00 24. Oggi entreremo ancora più nello specifico di un tema che abbiamo soltanto lambito, non immaginando. Volevamo fare una trasmissione istruttiva su ciò che accade in Giappone, ma ci siamo resi conto che il fenomeno comincia a essere una realtà anche dalle nostre parti. Quindi se avete sensazione che ci sia qualcosa che non funziona in un vostro ragazzo in questa direzione, o se alcuni sintomi particolare cocciutaggine nell'avere comportamenti isolati, nell'isolarsi dal mondo, nel avere qualcosa che potrebbe dare l'idea di essere un preludio all'ikikomori, fatecelo sapere, 800 24 00 24, e vi proponiamo la testimonianza di un ikikomori italiano che ci ha scritto attraverso Facebook e noi l'abbiamo trasformata in un documento. Mi sono rinchiuso nella mia stanza quando ho capito di non essere onnipotente. Fino ai 17 anni e mezzo ero un ragazzo pieno di rapporti sociali, più o meno stretti. La scuola l'avevo già lasciata da anni e passavo il tempo a inebriarmi nell'ozio disinteressato, così calzante per la mia adolescenza. Non so o non voglio spiegare il presunto trauma preciso che mi ha portato a vivere come tuttora vivo. Inizialmente si trattava di ansia, di una persistente percezione di un mondo ostile, fatto di mormorii, sguardi di sottecchi, dita puntate. Non vedevo nulla di tutto ciò essendo chiuso nella mia stanza. Ma una volta, dopo circa un mese, trovandomi fuori casa, pensavo solo a me stesso, riflesso nella mente delle altre persone. Passavo tutta la mia giornata in internet, mangiando quando avevo fame e interessandomi a tutto e niente. Non chiamavo nessuno e non ero rintracciabile. Leggevo, ascoltavo migliaia di artisti diversi, guardavo film e anime giapponesi. Giravo ore e ore in forum, blog e spazi vari in internet. I media in generale erano la mia finestra sul mondo. Lo sono ancora. Il paradosso è che questa persona che ci ha lasciato la sua testimonianza in realtà certifica un comportamento che è anche il mio, quello di tante persone che io conosco. E è paradossale che sia proprio io che da anni considero questa maniera di affacciarsi alle novità relazionali della nostra contemporaneità e poi faccia una trasmissione che apparentemente potrebbe sembrare di profonda censura verso le appendici emotive che oggi rappresentano il segno più tangibile nel vivere il nostro tempo. Ma non si può fare a meno di considerare anche il lato oscuro di questa affascinante maniera che noi proviamo ogni giorno di uscire dal nostro corpo e trovare altre sensazioni, altre possibilità di incontro con il mondo, anche attraverso qualcosa che non passa necessariamente attraverso i vecchi cinque sensi che conoscevamo come un unico metro della nostra realtà. Avevo milioni di identità, potevo essere chiunque e reperire quasi qualsiasi informazione. Così trascorse un anno. Poi ricominciai a dialogare con i miei familiari, persone di certo pazienti, e con un paio di amici dei tempi che furono, questi ultimi solo in internet. Il mio raggio d'azione si faceva meno angusto. Mia sorella prese la maturità e forse per spirito di competizione decisi di riscrivermi a scuola, pur non frequentando. A volte mi pesava dover sempre rappresentarmi per quello che non ero. Ogni tanto avrei voluto mostrare, anche solo da uno spiraglio, una parte del mio vero io. Iniziai a farlo, instaurando un piccolo numero di amicizie internet abbastanza profonde, oltre che stabili. Poche per qualcuno, non troppe dal mio punto di vista. Gestibili. Quindi probabilmente esiste un punto, esiste un ciglio del baratro oltre il quale uno dovrebbe fare un po' i conti su quello che è il rapporto fra una giusta, concreta e plausibile mantenimento di un contatto con il reale, di fare quello che anche le altre persone fanno, di non cercare assolutamente la sintesi più perfetta con la propria contemporaneità, quindi di uscire completamente dai rituali che ci fanno sentire ancora animali sociali e tuffarsi come in questo oceano che sembra sconfinato, sembra infinito, sembra profondo, sembra esaltare ogni particella impercettibile della nostra esistenza, ma che in realtà potrebbe anche portarci a sbattere contro un muro da cui poi è difficile rialzarsi. Quella primavera uscii di casa un paio di volte, non c'era praticamente nessuno, ma comunque era un passo avanti. Inoltre veniva a casa mia ogni tanto un vecchio amico. Ero sulla via della guarigione, se così la si vuole definire. A luglio dell'anno scorso passai gli esami a scuola per passare alla classe successiva. Ovviamente per farlo fui costretto ad uscire di casa, prendere un paio di mezzi pubblici, attendere e poi entrare in una classe piena di sconosciuti. Magari interagire davanti a loro, se non con loro. Il primo giorno ero abbastanza teso, ma non lo davo a vedere. Da allora ho fatto una vacanza e ho rivisto persone. Certo, non esco quasi mai, meno di una volta al mese in media. Non ho una vita sociale reale. Non faccio sport aggreganti e non partecipo a gruppi. Sono sempre io. Ma ormai non sono più un hikikomori. È diventata più una scelta, uno stile di vita. Dottor Lombardozzi, solo in una battuta. Questo è un esito, pare, positivo. Lei ieri ci ha detto che nel suo tentativo molte volte di recupero di questi ragazzi passa intere giornate a parlare dietro la fessura di una porta prima di convincerli a mettere il naso fuori. Sì, e poi parlo molto anche con i genitori, perché anche il primo ragazzo ha dato una chiave di lettura. Ho scoperto di non essere onnipotente e non ce l'ho fatta a tollerarlo. Le posso dire un dato statistico, minimo, perché sono pochi i casi. Però in tutti i ragazzi che hanno questo tipo di fenomeno, o estremo o molto minore, c'è sempre un atteggiamento dei genitori che lo hanno messo troppo al centro del mondo. Quando questo ragazzo scopre, uscendo nel mondo, che non è il centro del mondo là fuori, allora si chiude. Questo è un vorrei dare questo suggerimento a tutti i genitori che ascoltano. Non li fate sentire il centro del mondo, non li fate sentire onnipotenti, perché poi le conseguenze possono essere molto gravi. Sì, poi si sbatte la faccia con una cruda realtà. Il fenomeno hikikomori non è detto che colpisca soltanto adolescenti, ma è un fenomeno che può essere anche prolungato in persone di età più matura, come ci dice ad esempio Massimiliano. Buongiorno. Buongiorno, guardi, io volevo dirvi che questo fenomeno esiste da sempre, anche da quando non c'era il computer. Io ho 39 anni, sì. E per dire, nella mia classe del liceo c'erano quelle persone che vengono generalmente definite secchioni, che stavano tutto il giorno chiusi in casa. Sì, però andavano a scuola la mattina. Certo, perché erano anche costretti. Sì, ma è lievemente diverso. Noi tutti abbiamo conosciuto il secchione, abbiamo conosciuto la persona che non ha amici, che sta a casa, preferisce leggere, studiare. Qui c'è una specifica molto precisa, c'è un isolamento che diventa una clausura volontaria e c'è soprattutto una espansione estrema, soprattutto nelle ore notturne, quindi scambiando completamente i cicli vitali del resto dell'umanità attraverso il computer. Ma il fenomeno di hikikomori è talmente radicato ormai anche nel nostro immaginario, comincia a esserlo, che addirittura c'è stato un film fatto proprio su un soggetto che pare afflitto da questo tipo di patologia. Quello? Io lavoro qui da 2 anni e non ho ancora sentito la sua voce. Non mi ha mai parlato. Strano, non sembra. Da quanto lavori in questo negozio? 3 anni. E non ti sei ancora presentato a questa bella ragazza? No, eppure sarebbe carino. Dicono un gran bene di lui. Hikikomori è un film di Luca Tornatore, alias Marco Prati, che regista questo film. Buongiorno Tornatore. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ecco, noi ci fermiamo un istante adesso, dopo averla salutata, per dare la linea alle informazioni dalla borsa. Ma lei poi ci dirà esattamente come ha avuto questa sorta di lungimiranza di fare un film. Quindi, quando l'ha girato questo film? Sarà girato nel 2006. Nel 2006, quindi tre anni fa circa l'aveva già intuito, quello sarebbe diventato un fenomeno emergente e preoccupante anche nella nostra società. Stavamo parlando con Luca Tornatore, regista e autore di un film, Hikikomori, che ci sembra che già dal 2006 ha posto il problema di una persona che potesse vivere in un isolamento dai normali e consueti sistemi di comunicazione, di relazione, e piuttosto spiccato verso in realtà una relazione attraverso macchine come il computer, come i luoghi di conversazione virtuali. Luca Tornatore, in sintesi di cosa parla il suo film, che si chiama proprio Hikikomori, titolato Hikikomori, quindi lei aveva già consapevolezza di quale fosse questa figura particolare? Ben consapevole, anche se non era stata trattata prima di Carla Ricci, non c'erano saggi completi. Parla appunto di un ragazzo che soffre di questa malattia in maniera, lui, leggermente più lieve rispetto a un altro ragazzo, Hikikomori, che non compare mai perché sta sempre chiuso. Sono quindi due gli Hikikomori, e poi col tempo, diciamo, uno purtroppo si suiciderà e lui, diciamo, cercherà poi alla fine, reagirà avendo contattato questi Hikikomori, e cercherà di alla fine di venire fuori, e poi ecco, non anticipo nient'altro comunque. Ecco, come mai tu nel 2006 avevi già idea che questo sarebbe stato un problema che poi concretamente sarebbe stato calato nella nostra società? Non se ne parlava ancora in quegli anni. No, non se ne parlava. Il discorso, faccio una brevissima digressione, a noi ci affascinava questo personaggio perché nella cinematografia, dove si dà un giudizio di disvalore sull'ordine costituito, sulla società, spesso ci sono dei personaggi come il clochard cepliniano, il fuorilegge godardiano, oppure nelle nostre commedie questi cialtroni baldanzosi che con la loro irriverenza hanno un qualche cosa di positivo, di romantico. A noi ci piaceva un personaggio che non avesse niente di propositivo, cioè dare l'idea di una società negativa, di una società, e un personaggio che non avesse niente di propositivo, che fosse totalmente passivo verso questa situazione. Volevamo dare un esterno della casa e un interno della stanza del Hikikomori come una sorta di endiadi, era lo specchio di quello che c'era fuori, non c'era nessuna reazione da parte sua, ma in realtà la società è vista come non reagire a quello stato in cui è calato. Il Hikikomori che non comunica è lo stesso, vive quello che vive la società, si vede la società in metro, tutti che corrono. Diciamo che è l'esito a questo punto più palpabile e percepibile di una sorta di nichilismo che, per quello che posso io osservare in realtà del mondo dei media, che è quello che più mi appassiona, è esattamente l'opposto ma corrispondente del ragazzo che darebbe l'anima per entrare nella casa del Grande Fratello. Anche lì si sta chiusi in una stanza, ma c'è la massima visibilità e il minimo livello di elaborazione di quella realtà. L'Hikikomori, anche lui si chiude in una stanza, non interessa più essere visto dal mondo delle massaie, degli appassionati, della TV generalista, ma solamente magari come personaggio di un multiplayer ambientato in un medioevo fantastico. Sì, penso che ha centrato esattamente la comparazione, che sono, diciamo, speculari le due figure. Potrebbe, c'è sempre questo elemento, diciamo, questo nichilismo che attorna tutta la società, e di cui lui è semplicemente una figura. Ci affascinava di questo il personaggio. Cioè, la comunicazione che lui, quando comunica, la tecnologia lo allontana dalle persone, ma le stesse persone che sono della società ugualmente sono allontanate. Questi mezzi di comunicazione veloci non riducono le distanze, le accrescono nella società, e lo stesso avviene con lui, con la sua telecomunicazione. È lo specchio appunto di questa società nichilista, dove, diciamo, si sono persi i valori, che corre sempre a ricercare un qualcosa, a migliorare una situazione che in realtà non è più migliorabile, che è diventata in istasi. Sì, diciamo che di fronte ai mezzi che in realtà più che avvicinare allontanano. Io vorrei disperatamente, perché è uno dei temi che appassiona la mia ricerca professionale, personale, dire che ci sono usi sbagliati, estremi e patologici questi mezzi, ma non si può fare a meno di considerare che una delle cifre più consistenti del tempo in cui viviamo, che noi cominciamo a doverci abituare, che le relazioni tra persone assomigliano sempre più a connessioni. Che ne dica il sociologo Bauman, che con orrore vede la mutazione tra relazione e connessione come se fosse un passo indietro, l'essere umano contemporaneo deve cominciare a capire che anche la connessione può avere il valore di una relazione. Adesso mi viene da pensare che l'hikikomori in realtà una sua vita ce l'ha, diventa un'altra persona, diventa un personaggio magari, non so, di un medioevo fantastico, di un mondo fantasy, diventa un guerriero, una principessa, un drago, qualcosa che non appartiene più ai personaggi reali, alla società che li circonda, ma a un mondo fantastico. Qualcosa che lambisce molto da vicino questo fenomeno, questa volontà di interpretare personaggi che appartengono a una fiction parallela, che molte volte non è quella suggerita dalla nostra cultura, molte volte, come nel caso dell'hikikomori italiano, è una cultura trapelata attraverso il filtro del Giappone, che vede, legge la nostra epica, la nostra narrativa, stralci romanzeschi della nostra società, li nipponizza e ce li ripropone. Uno dei fenomeni che dà questa idea è quello del cosplay. Ce ne parla questa mattina Carmine, che ha fatto un'indagine sul cosplay e magari ci dice qualcosa di più di quello che io ho semplicemente accennato. Carmine, buongiorno. Buongiorno a voi, vi ringrazio per avermi invitato a fare questo intervento. Io anch'io più o meno dal 2005 sto realizzando una ricerca fotografica relativa al mondo del cosplay, che a mio modo di vedere in realtà rispetto alle drammatiche linee di cui abbiamo parlato, di cui si è parlato fino adesso in trasmissione, forse in realtà ha in sé la forma di un'evoluzione verso, di un'apertura verso l'esterno. Ecco, lo spiego velocemente, Carmine, sennò magari sì. Parliamo di qualcosa. Il cosplay, qualcosa è vero, di giocoso. Io vedo queste ragazzine che praticano cosplay molte volte il sabato a Piazza del Popolo, molto vicino da dove si fa questa trasmissione. Sono ragazzine che si vestono come personaggi dei manga, delle anime giapponesi, molto divertenti. Si vestono come i costumi delle loro eroine, quindi vanno vestite magari con abiti rosa fucsia, con vestiti fatti di rete, con pizzi, trine, merletti, a seconda delle varie suddivisioni, e semplicemente vanno in piazza e si fanno vedere. In qualche maniera non si omologano a delle mode correnti, non si vestono Dolce Gabbana, non si fanno i tatuaggi, i piercing come le loro amiche, non hanno i vestiti dei tronisti o dei personaggi di Maria De Filippi, ma in realtà c'è una ricerca particolare di uscita dalla realtà attraverso il costume. Sì, assolutamente. Spesso e volentieri vengono presi spunto direttamente dagli anime, dai videogame, vengono realizzati con una qualità altissima i costumi, magari di robot alti 2 metri, 2,20 metri, addirittura utilizzando delle tecniche che sono quelle del cinema quasi a livello di costruzione. Ho fotografato un ragazzo che ha fatto appunto un robottone che adesso si chiama Nightmare ed è alto 2,20 metri ed è fatto tutto con fibra di vetro, e che è un materiale, voglio dire, che solo nei grandi carnevali che abbiamo non so, tipo a Putignano oppure nelle grandi tradizioni carnevalesche italiane si vede utilizzare questa tecnica a questo livello. Ma qui c'è la spiccata creatività, in realtà socializzano, perché quando vanno in piazza a farsi vedere in qualche maniera si espongono al mondo e al giudizio del mondo. Infatti in questo secondo me voleva essere anche un po' una nota, un intervento tra virgolette di una deriva positiva rispetto a quello di cui si è parlato fino a questa mattina nel cosplay, perché in realtà la cosa molto molto bella è che tra di loro poi c'è veramente una forte jouissance, e questo fenomeno in Italia ha una sua espressione molto forte legata alla fiera del fumetto, che è quella di Lucca, che da anni ospita questi ragazzi che appunto vogliono esprimersi attraverso il cosplay e che addirittura però anche in Europa ha una sua espressione con una fiera che viene tenuta a luglio in quel di Parigi, dove il fenomeno è veramente fortissimo e si palpa un'energia. Senta Carmine, è possibile vedere da qualche parte le sue foto? Perché già mi stanno chiedendo degli ascoltatori tramite Facebook che vogliono avere qualche indicazione concreta dell'iconografia del cosplay. Allora, molto volentieri, a settembre uscirà un libro su questo, per il momento quindi le foto non sono ancora pubblicate, io sto realizzando questo libro che uscirà a settembre con una casa editrice che si chiama Libri a Parte, e potete contattarmi tranquillamente, se possibile lascio il mio indirizzo email, il mio riferimento, ed è iosono@carminemauro.it, di modo che renderò appunto... Vabbè, chi volesse informazione sul cosplay, Carmine, che ci sta lavorando, ci sta studiando, è disposto a darvela. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Devo parlare degli otaku, una generazione di cui si è già molto parlato, sono questi ragazzi giapponesi, anche loro tutto manga e videogiochi. Sì, volevo dire semplicemente che ho l'impressione che questi otaku siano un po' gli antenati dei kikomori, nel senso che esistevano negli anni sicuramente 90, forse anche 80, e esprimevano questa loro voglia di stare chiusi nei fumetti quando ancora non c'era internet in pratica. Cioè, anche quella era una patologia, nel senso che era veramente gente che viveva nel mondo dei manga e quindi si innamorava dei personaggi. Sì, anche gli otaku, diciamo, se no oggi diventa una trasmissione sulle sottoculture giapponesi. Gli otaku in realtà poi avevano delle forme molto esasperate che rasentavano il feticismo e erano comprensibili in un certo tipo di cultura giapponese. Se uno non approfondisce bene alcuni temi legati alla corporeità, legati alla tabuizzazione della sessualità o all'espressione libera di altre forme di sessualità nel Giappone, è un po' difficile capirli. Infatti gli otaku hanno poco attecchito alle nostre latitudini, se non quei ragazzi che si vedono molte volte nelle fumetterie specializzate che divorano fumetti come se fosse pane. Noi in questo momento lasciamo la linea alle informazioni sul traffico. 800 24 00 24, abbiamo iniziato a parlare di qualcosa di fortemente legato a comportamenti patologici, ma poi vedete che lentamente sfumiamo verso una passione per culture alternative rispetto a quelle più correnti, quelle più frequentate. Riprendiamo il timone dell'argomento che trattiamo da due giorni su quella che doveva essere la deriva che avremmo preferito trattare oggi in maniera più concreta, ma il tempo ancora ci permetterà di ritornare su questo argomento. Noi ci domandavamo all'inizio della prima trasmissione in cui trattammo il problema Kikomori se sia mai possibile vedere che esistono dei sintomi di disagio che poi possono sfociare in una patologia nel comportamento dei ragazzi durante gli orari scolastici, visto che i nostri ragazzi di età adolescenziale passano più tempo a scuola con i professori che con i genitori, come mai non ci se ne accorge la scuola che magari un ragazzo con dei gusti un po' differenti da quelli della massa e i loro compagni, con delle sensibilità particolari, con un disagio nell'essere accolto dal gruppone di quelli che fanno tutte le cose che fa bene per sentirsi forti al centro dell'attenzione e sull'onda lunga delle mode correnti, non possono poi avere qualche problema anche percepibile in qualcosa che possa sfociare in un comportamento anche pericoloso. Io sono un'animatrice sociale, non lavoro nella scuola ma in altre strutture. Ho tre figli, di cui due adolescenti, e a proposito di scuola volevo dirti che forse gli insegnanti non se ne accorgono, perché o non preparati o perché si occupano del rendimento o perché hanno da rispettare programmi o perché non sono portati o perché forse non era il loro mestiere. Però io sento quando i miei ragazzi vengono a casa che fra di loro se ne accorgono benissimo, nel bene e nel male, quando qualcuno dei loro compagni manifesta un disagio o ha dei problemi. Non sanno a chi dirlo, spesso non gli interessa neanche di andarlo a dire perché sembra quasi una delazione. A me è successo che mi raccontassero di un'amica che continuamente stava entrando in anoressia, mangiava, andava nel bagno, vomitava. Insegnanti e genitori non ne sapevano niente, altri che praticamente hanno cominciato ad abbandonare la scuola, nessuno sapeva niente, ma i ragazzi lo sanno. Forse bisognerebbe puntare su di loro, fare crescere una cultura che non è fare la spia se tu racconti che cosa sta succedendo a qualche tuo amico o d'amica. I ragazzi lo sanno, dice questa nostra ascoltatrice che ci ha lasciato un messaggio in segreteria. È pur vero chi ha figli e li osserva nel difficilissimo passaggio per cui il bambino o la bambina che ci saltava sulle ginocchia improvvisamente comincia a essere una ragazza con le tette o un ragazzo con i baffi. È un momento in cui non parlano più, non raccontano più niente di se stessi, anzi provano un senso di fastidio se qualcuno cerca di capire, di scoprire l'insondabile mistero per cui passano improvvisamente momenti di tristezza, di cupezza, e non si spiega mai perché siano così diversi improvvisamente quei bambini di cui pensavamo di sapere tutto. Buongiorno, sono un insegnante di italiano. I 15enni, 16enni, insomma gli adolescenti hanno in realtà una complessità psicologica molto profonda, per cui lo stesso insegnante che li segue anche 7, 8, 10 ore a settimana può solo intuire quello che c'è dietro magari i loro sguardi o le loro domande. C'è da considerare un fatto secondo me, che comunque lo studente molto spesso sta più tempo in classe che non con i genitori, quindi come dire, il ruolo centrale è quello dell'insegnante, a volte anche più di quello paradossalmente del genitore, che può intervenire ma non sa quello che succede in classe, non sa come il figlio si comporta se non attraverso le parole dell'insegnante, per cui in qualche modo la mancanza che si viene a creare soprattutto in un ambito scolastico, per cui bisognerebbe secondo me inserire delle ore di psicologia obbligatorie per aiutare questi ragazzi ad aprirsi e che siano obbligatorie di classe, non solamente a livello di sportello. Mi sembra che l'esigenza che venga fuori è di qualcosa che poi in questo ascoltatore diventa la necessità di inserire la psicologia nelle possibilità comunque di supporto scolastico nei confronti dei ragazzi, ma per chi con me non è poi appassionato così radicalmente della psicologizzazione di ogni problema, devo dire che però c'è una zona d'ombra. Di scuola si è parlato tanto ultimamente, si parla di programmi scolastici, si parla di voti in condotta, si parla di corpo docente, si parla di organizzazione della scuola, ma esiste una zona d'ombra che sono i problemi legati alla relazione tra ragazzi, che se ne parla soltanto quando qualche giornalista che non sa come riempire le pagine parla dell'SMS passato con il video shock o dell'atto di vandalismo, di bullismo, di cui si ha soltanto percezione quando diventa notizia, ma diventa notizia semplicemente quando qualcuno racconta quello che normalmente, e lo sappiamo noi che abbiamo figli a scuola, accade in tutte le scuole italiane. Ho al telefono il dottor Luigi Palma, che è presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, a cui pongo proprio questa domanda. Esiste una zona d'ombra o una parte della giornata scolastica dei nostri ragazzi che non è sufficientemente evidenziata dai programmi scolastici, dalla didattica, dalle riforme, da tutto quello di cui ogni giorno esce sui giornali riguardo al rapporto fra società e scuola? Guardi, buongiorno a tutti innanzitutto, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi, mi sembra che sia emersa da parte di tutti coloro che in qualche modo si occupano del sistema educativo scolastico, l'esigenza e la necessità che vi sia all'interno del contesto degli ambienti scolastici anche la possibilità di un intervento da parte dello psicologo, la possibilità cioè che gli operatori, gli alunni, i genitori, gli insegnanti in qualche modo si possano appunto rivolgere allo psicologo per una consulenza. Ecco, a questo proposito vorrei dire che siamo l'unico paese in Europa a non avere istituzionalizzato il servizio di psicologia scolastica. E questo non vuol dire che non esistono psicologi che lavorino all'interno delle scuole. Noi abbiamo condotto come Consiglio Nazionale una ricerca a livello nazionale recentissima nel 2008 e abbiamo stimato che gli psicologi che lavorano nelle scuole sono circa 3.000 al massimo, però il ruolo non è riconosciuto, non è istituzionalizzato, non ci sono normative di riferimento, le attività svolte sono svolte appunto senza continuità, manca anche un set di attività minime stabilite appunto da norme garantite. Come dovrebbe accadere, dottor Luigi Palma? Io non so, io sono appassionato dei cartoon dei Simpson, Bart Simpson, sì. Nella scuola di Bart Simpson c'è lo psicologo, dove il bambino bussa sulla porta, entra e c'è un signore che lo sta a sentire. Dovrebbe essere una cosa simile? Beh, diciamo diciamo che questa è solo una delle attività, lo sportello, il cosiddetto sportello a cui ci si può rivolgere volontariamente, però lo psicologo scolastico si occupa anche e fa anche altri tipi di interventi rivolti al gruppo classe, ai genitori, agli insegnanti, quindi insomma è un servizio che opera per l'interno della scuola al servizio del sistema scolastico stesso. Perché all'insegnante può essere richiesto anche questo tipo di occhio sui comportamenti. L'insegnante di solito è interessato al rendimento scolastico, se ci sono dei casi di indisciplina, di insubordinazione o di grave mancanza, oggi ha uno strumento di repressione. Quando si va a parlare con gli insegnanti, nei pochi minuti che si hanno a disposizione, è sempre difficile esporre un problema che si intuisce, un disagio nei rapporti di classe. Molte volte poi esiste un'omertà totale, una difficoltà di parlarne anche addirittura con gli altri genitori. Ecco. Certo. Quale sarebbe la figura che in realtà dovrebbe avere un occhio attento e prevenire quello che accade? Intanto appunto la possibilità all'interno delle scuole di rivolgersi anche come insegnanti ad una persona esperta, appunto allo psicologo, per parlare, per discutere, per vedere di affrontare in qualche modo problematiche e manifestazioni di disagio che seppur vengono intuite anche dall'insegnante, come diceva prima qualcuno negli interventi precedenti, e non si sa comunque con chi parlare, a chi dirlo, quindi insomma già la presenza di questa figura servirebbe appunto. Quindi sarebbe secondo lei tutta da inventare. Sentiamo solo un istante Gabriella, buongiorno. Ah, è caduta Gabriella, ascoltatrice Gabriella, comunque le dico, le anticipo perché ho la scheda davanti, voleva parlare con noi parlando di incomunicabilità e isolamento, dice che è un fenomeno che richiede impegno massiccio da parte dei genitori che con grande fatica devono creare delle alternative. Il problema maggiore che ha un figlio a scuola in età adolescenziale è non tanto il rendimento scolastico su cui si può intervenire, ma il non detto, è quello che il figlio non ti racconta ed è il disagio che prova molte volte nel rapporto, proprio nella socializzazione con gli altri compagni. Mi rendo conto che è un argomento difficile e scivoloso, esistono poi le vanaglorie dei genitori, tendono sempre a giustificare e considerare sempre corretti i comportamenti dei figli e sbagliati quelli degli altri, ma anche in questo si sente la necessità di una nuova figura. Assolutamente sì, perché comunque l'insegnante ha un ruolo ben definito e quindi molto spesso non c'è spazio per parlare di altro per una serie di motivazioni. Qui veramente mi sento di spezzare una lancia a favore degli insegnanti. Gli anche insegnanti perché non devono fare di psicologi. Ci sarà necessaria di strumenti tecnici specifici. Un insegnante può avere il senso del buon padre di famiglia, il buon senso, come si diceva una volta, ma non si può chiedere una conoscenza profonda di tutte le ramificazioni della psicologia di un ragazzo. Senta, dottor Palma, siccome siamo arrivati alla fine della trasmissione, sento che l'argomento merita approfondimento, ci sentiremo ancora con lei e cercheremo di raccogliere le telefonate e gli interventi che sono arrivati numerosi anche a questa trasmissione per mirarlo ancora di più su questa necessità di un lettore del disagio adolescenziale nella scuola. Non soltanto il profitto è importante, ma è importante anche l'equilibrio in un momento in cui si crea la personalità di un essere umano. Ringrazio Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti e l'appuntamento questa volta è veramente a lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.